No, ma a parte... È la notte giusta. E ne verranno altre. E altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Siamo qui in diretta su radiocicletta.it, ancora una volta questo giovedì con gli spacciaserie. Abbiamo problemi di linea, io continuo a vedere qua lampeggiare, quindi spero... Bravo Piero, bravo! E come potete sentire è ancora qui con noi, per ancora poco credo, Paciu de Monoserie. E, Tommaso? Eccomi, ci sono. Ok, abbiamo anche Tommaso, qui la linea continua a saltellare, mi dispiace. Abbiamo un messaggio del presidente, dice: l'internet è al collasso, come al solito. Come compassato il nostro presidente. Molto, molto filosofico e definitivo, direi. E vabbè, quindi noi proviamo a fare la trasmissione anche quest'oggi. E quindi volevamo salutare il nostro Edmond Dantès, che è rinchiuso nel castello d'If a Marsiglia, giusto? Edmond? Sì, sì. Eccomi, sì, non sono proprio al castello di If, però l'avvicino, dai. No, però siccome ti sento sempre in carcere solo, non ha ancora incontrato il suo amico Faria, evidentemente. E quindi, insieme a lui oggi queste parleremo... Queste citazioni, Pier. Ho ripreso da poco il Conte di Montecristo. Appunto, questa sera parleremo di una nuova serie TV, cioè nuova per modo di dire, va in onda dal 2007 sul canale Showtime, e nulla, io prima di dire qual è la serie di cui parleremo, la introdurrei con una canzona che... Dobbiamo anche ricordare una cosa, Piero. Che cosa? Che cosa? Dimmelo. È una puntata VM16 questa. Ah già, VM16 che vuol dire? Perché io prima ho scherzato, ho detto che erano le mie misure. Cosa vuol dire, Tommaso? Vuol dire che è vietata ai minori di 16 anni. Ecco, quindi... A causa dei suoi contenuti poco adatti... A cosa? A gente più piccola. Quindi, Leonardo, vai a letto. No, va bene, scherziamo. Quindi... Vi mandiamo subito questa canzone, voi capirete, anche se non c'entra assolutamente niente con la serie TV di cui andiamo a parlare, però c'entra in qualche altro modo. Prego. In qualche modo c'entra. Quindi, secondo voi di cosa parleremo quest'oggi? Parleremo di Tommy? Californication! Ti ringrazio, Tommy, c'è sempre questo ritardo che mi dà suspense. È fantastico, una puntata così da solo sarà fantastica. Allora, parleremo di Californication. Tra l'altro questo pezzo non c'entra assolutamente niente con Californication, anzi, i Red Hot Chili Peppers hanno fatto causa alla Showtime, che è la casa di produzione, il canale su cui va in onda Californication, per l'utilizzo appunto del titolo, in quanto è il titolo di una loro canzone che abbiamo appena sentito, nonché di un loro album, uscito nel 99, ora Maria mi correggerà, ma credo di non sbagliare, era nel 99, e questa causa però è stata persa, perché loro hanno trovato un cavillo dicendo che il verbo, diciamo, californicare, era già stato usato da un altro autore, in un altro articolo, e quindi diceva, tanto ormai era già stato usato, era stato liberalizzato, voi poi l'avete usato per la canzone, noi poi lo possiamo usare per il titolo, quindi non siete i primi, lo possono fare tutti. Si chiama ancora Californication, quindi credo a tutti gli effetti che abbiano vinto la causa. Poi, sicuramente sì, l'hanno vinta. Ecco, Tommy, grazie. Allora, questo perché noi oggi parliamo di Californication. Tutto è nato dal fatto che questa è la puntata numero 10 degli Spacciaserie. E Tommy, dici, quando parlavamo di cosa parliamo nella puntata 10, ha fatto no, per forza mi devi far fare una puntata su X-Files, perché la puntata 10, la puntata X, me la devi far fare su X-Files. Ora, con tutta la buona volontà. Piero. Dimmi tutto. Abbiamo una comunicazione urgentissima. Che succede? Leo ha detto, il nostro fantastico presidente, sì? Ha detto che sta per staccare la rete. Che bella puntata, ragazzi. Poi dici, perché sei nervoso quando arrivi in radio? Ci sta per staccare. Che bello. Ma poi lui sta poi... supplicando ciao, di mamma. Filartelo nella chat, un secondo. E come si fa? Ma non mi cago, cioè non mi ha scritto niente nella chat, ora io... sei tu che mi hai scritto, ma Leo non mi compare. Scusate questo attimo di radio verità, ma i problemi tecnici ci obbligano a fare un po' di... Intanto musica. Che bello il nostro jukebox live. Che sta succedendo? Qui sta succedendo. Tommy, tutto. Ti stai lamentando? Ti stanno violentando? Tommy, si sentivano dei gemiti, dei lamenti. Cosa io succede? Io sono qui. Ah, ok, avevamo sentito voci. Ma Leonardo non mi calcola, che mi deve dire? Ma se è qui, che scendesse un attimo a dirci tutte queste belle parole che ci deve dire. Noi no. Siamo qui anche per lui. È più bello via chat. Sì, ma se scrivesse qualcosa via chat sarebbe più bello. Altrimenti io rimango qui a parlare per un'ora del fatto che abbiamo problemi a non fare la trasmissione. Ma questo non scrive. Non scrive nemmeno, cioè è proprio piantato. Viva la rete di casa di Leo. Niente, non va, un chezzo. Vabbè, intanto io stavo spiegando ma una probabilmente cosa. Probabilmente è proprio questo il problema. Ah, bene. E allora che dobbiamo fare? Ci suicidiamo? Spegniamo e riaccendiamo? Soluzione informatica. Mentre io continuo a dire sì. Il fatto che è importante. Sì. X-Files, mentre trascorre la vita. Tutti non cattolici in chat non capiranno di cosa tu stia parlando. Bene, era una canzone dalla sua parrocchia, perché io non conosco le sue parrocchie. Caos in radio. No, continuo. Quindi X-Files non si poteva fare perché, siccome è periodo di studio, lui è lì che tra l'altro deve lavorare. Non sono più in linea su Skype, abbiamo perso Tommaso. Allora ci avrà staccato. Secondo me ci ha già staccato? Qua intanto lampeggia, io non lo so. Noi stiamo registrando in tutti i casi. Si sente il rumore di Skype bellissimo. Sì. È un girino che ogni tanto emerge e fa il delfino. Ma intanto in chat non scrivono nemmeno, cioè è proprio morto. Ci siamo staccati, non lo so, Io non lo so. Comunque. Sì, ci siamo staccati. Eh sì, ci hanno staccato. Io ci ho staccati. Adesso però la linea non rimbalza. Oddio, ci siamo di nuovo, ci siamo. Sì, perché... Se dice Europa. Piero? Europa dovevi dire, neanche questa volta. È un disastro Tommaso, tutte le volte. Senti, ma li abbiamo risolti i problemi tecnici? Io non lo so, io continuo a parlare, perché comunque il principio della radio è che tu parli e speri che qualcuno ti ascolti. Dunque Tommy, stavamo dicendo di X-Files. Esatto. È la quindicesima volta che parlo di sto fatto, quindi... Di X-Files non potevamo farlo perché tu avevi da lavorare, io avevo da studiare e rivedersi X-Files era un po' un problema. Quindi abbiamo detto, perché non sfruttare il protagonista di X-Files maschile, che era appunto... David Duchovny. Bravissimo, un applauso per lui. Abbiamo detto, ma quale serie TV ha fatto, per cosa è famoso adesso? È famoso per aver fatto Californication. E quindi, in virtù di questo collegamento, e in virtù di questa puntata, che è la numero 10, io manderei un pezzo musicale dal decimo episodio di Californication. The Pools con Loose Talk. questa che abbiamo ascoltato è la sigla appunto di Californication. Siamo tornati abbastanza stabili, grazie Leonardo, e appunto per ricominciare, riprendere tutto il tempo perduto, partiamo subito con il primo spezzone che inquadra un po' il personaggio di Hank Moody, che è il protagonista, interpretato appunto da David Duchovny, e in questo primo spezzone, che è proprio l'inizio della serie, c'è lui che è prima in macchina, esce dalla macchina, chiude lo sportello ed entra in chiesa. E in chiesa avviene quello che avviene. Ora, se mi date un attimo di tempo per caricare dalla regia il filmato partirà, si spera. Tanto prego Tommy di fare silenzio. Ciao Tommy. Il filmato, purtroppo il trattore non andava, questo andrà, va. Ok, grande capo, affrontiamoci. Non siamo mai arrivati a questo punto finora, ma a mali estremi, estremi rimedi. Mi chiamo Hank. Buongiorno, Hank. Mi scusi, sorella, stavo soltanto cercando di fare due chiacchiere col suo consorte. Le posso essere di aiuto? No, non mi va di infastidire una persona in carne e ossa. No, nessun fastidio, è per questo che sono qui. Si tratta di questo. Ho quella che lei chiamerebbe una crisi di fede. Detto in parole povere, non riesco a scrivere. E sono cavoli acidi, visto che di mestiere faccio lo scrittore. Mi ci guadagno da vivere. E adesso non riesco più a scrivere due parole in croce, porca put... Scusi. La prego di scusarmi, sono una testa di... Rieccoci. Mi perdoni, sorella. Beh, normalmente io consiglio di recitare il Padre Nostro, un paio di Ave Maria. Ma credo che il suo caso sia diverso. Che ne direbbe di un pompino? Un bel pompino. La farebbe sentire meglio. Un pompino fatto da lei? Succhiarselo da solo è un tantino complicato. Non sono un acrobata. Ma lei è una suora. Una suora molto arrapante. Scusa, non guardare. Gesù bambino, aiuto. Hank andrà all'inferno. Brutto sogno, amore? Sì. Cioè, forse no. È difficile dirlo. Beh, ti stavi agitando e allora mi sono chiesta quale sarà il modo più carino per farlo svegliare. Ti meriti il Nobel, perché un modo più carino non potevi trovarlo. Tu sei gentile con me e io lo sono con te. Giusto, un perfetto don't des. Che vuol dire? Lascia perdere. Eh già, questo era un po' l'inizio blasfemo del programma. Tanto io... Tommy, ci sei? Adesso puoi parlare. Sì, rieccomi. Sei libero, vai. Sono tu cos'hai? Tu non l'avevi vista questa serie, giusto? Quindi cosa hai pensato? No, non l'avevo visto. Cosa hai pensato quando hai visto questa presentazione del personaggio un po' così fuori dagli schemi, un po' forte, diciamo? Allora, senti, in realtà l'inizio è stato per me un pochino traumatico. Penso un po' per soprattutto perché io avevo visto, ho appena finito di vedere tutta la serie di X-Files, per cui avevo il personaggio di David Duchovny molto impostato, molto serio, molto rigoroso. Ok. Qui proprio dalle prime scene. In quanto tempo hai visto tutte X-Files? Scusami la domanda che non c'entra un cavolo. In 3 mesi. Cavolo, quante stagioni, scusa? Sono 9 stagioni. Salute, complimenti. No, era così, giusto per sapere. In 3 mesi hai visto... Sì, ma considera che l'ultimo mese ho vissuto in solitudine. Ok, quante puntate per stagione? Scusate se intervengo così, no, perché... 22. 22 puntate, 22 per 9 fa 220 meno 22, ragazzi. Quindi 198 puntate, ragazzi. Complimenti agli spacciaseri, sono veramente nerd, complimenti. Senti, dopo le tue cose che hai messo online, non parlare di nerditudine perché tu vinci. Quindi... No. E io e Tommy vince alla grande, Marco, per cui proprio bravo, neanche Tommy, difenditi. Neanche da ma che io esco in 3 mesi, non guardo 198 puntate. Ma lui poverino è rinchiuso al castello di If, come fa? Ma come fa? Va a giro, non può uscire? No, capito. Che... Sì, posso uscire, però. Però c'è X-Files. Senti, ne parliamo in privato. Ok. Quindi, tornando al tuo punto di vista, continua Tommy, vai. Ci comunque interessa. Ecco, quello che stavo dicendo è che in X-Files David Duchovny è molto impostato, una persona molto rigorosa, molto seria, eccetera. Qui dai primi istanti si vede che è completamente diverso. Quando scende dalla macchina sembra quasi fatto, sostanzialmente. La prima azione che fa è spengere la cicca nell'acquasantiera della chiesa, sì, quello è... e via dicendo. Non l'hanno potuto vedere i nostri ascoltatori, ma in effetti comincia così. Però ecco, se uno riesce a passare un attimo dietro a questa a quest'area un po' strafottente di questo personaggio, in realtà è un personaggio a suo modo interessante, molto caratterizzato anche poi nelle puntate successive. Risulta addirittura simpatico, diciamo, comunque, perché tu dici, vedi, sì, questo qui borioso, sì, sì, così lui se le scopa tutte, dice, ti risulta antipatico. Invece no, riesce anche a essere simpatico e a far immedesimare magari in un qualche modo, in un modo magari non diretto, il sì, telespettatore. Ma io credo che lui riesca a risultare simpatico perché si fa lo strafottente e tutto, però alla fine è lo sfigato di turno. Cioè, nonostante lui riesca ad avere più o meno tutto quello che vuole, quasi tutto quello che vuole, riesce comunque ad essere lo sfigato della situazione. Esatto. Per cui è questo contraddittorio, secondo me, che lo rende interessante. Eh già. Hai riconosciuto la canzone che andava in sottofondo allo spezzone? Sì. Qual era? Io con i titoli sono una frana, you non farmi fare questo. Get What You Want dei Rolling Stones, era giusto? Conferma. Sì. Confermo. Benissimo. Cioè, questa canzone non la possiamo mandare perché l'abbiamo già mandata, se non vado errato, nel primo episodio, nella prima puntata degli Spacciaserie. Però questa canzone ricompare in un altro episodio, che credo sia il 12° della prima stagione, con altri esecutori che sono Tommy Stinson. Un attimo che cerco. Sì, Tommy Stinson and Friends for Done to Death. E quindi ora ce l'ascoltiamo in questa nuova versione. Buon ascolto. Eccoci tornati qui in diretta di nuovo e nulla, non abbiamo ancora detto bene qual è la storia di cui stiamo parlando, qual è la storia di Californication, qual è la trama. La trama è, diciamo, che c'è lui, il protagonista Hank Moody, che è uno scrittore che ha fatto, uno scrittore newyorkese che ha scritto diversi romanzi e, tra l'altro, i titoli dei romanzi, che sono nell'ordine South of Heaven, Seasons in the Abyss e God Hate Us All, sono rispettivamente gli album di un gruppo metal statunitense chiamati gli Slayer. Quindi c'è questa piccola curiosità che abbiamo trovato sul web. E, appunto dell'ultimo film, dell'ultimo libro, God Hate Us All, Dio ci odia tutti, che è un romanzo nichilista, quanto dicono nella serie, è stata predisposta una trasposizione cinematografica che però stravolge un po' i toni del romanzo e lo trasforma in una commedia melenza romantica con i protagonisti che sono Tom e Katie, che diciamo i più maligni individuano in Tom Cruise e Katie Holmes. E il romanzo appunto viene stravolto e gli viene cambiato il nome nel film. Il film si chiama A Crazy Little Thing Called Love, una pazza cosa chiamata amore. La trama però fino a questo punto sarebbe abbastanza sterile, perché capito abbiamo questo scrittore che ancora non si sa bene cosa faccia e che ha scritto questo libro, c'è questo film, che sono un po' in contrasto di loro, in quanto uno è un romanzo nichilista, uno invece è una commedia romantica, ma non c'è un qualcosa che ci faccia appassionare ancora. Cosa c'è che invece ci porta a identificarci con Hank? La cosa che appunto è particolare di questa serie qui è che lui, particolare, come un po' in tutte le altre storie, ha una storia d'amore che non si è perfettamente realizzata. La storia d'amore è con Karen, sua ex compagna, che l'ha lasciato e ora sta insieme ad un'altra persona. Karen ha avuto con lui una figlia che si chiama Becca, che ora è in età preadolescenziale, e io direi, Tommy, di andare a vedere un filmato, se non vuoi dire nulla tu. Benissimo, allora vediamoci il filmato e poi parliamo un attimo di Becca. Ok. Signore, papà sperimenta un nuovo look. Come ti sembro? Papà? Sì, tesoro. Sei uscito di testa? Sì, ma per il resto sono molto efficiente. È un po' come quelle persone svantaggiate che lavorano da McDonald's. Esattamente. No, è che ho fatto tardi. Mi sono dimenticato i pantaloni. Ma se vi sentite in imbarazzo, unitevi a me. Toglietevi pantaloni e gonna e vi invito al ristorante dove si mangia a seminudi. Mi allettano. Dietro l'angolo, il ristorante. Ma ho già un impegno, sono desolata. Sarà un impegno interessante. Sì. E dai, mamma. Peperotto, non posso. Lo sai. Ti godrai meglio tuo padre. E a me bacino. Solita classe, non ti smentisci mai. Senti chi parla, la principessa sul pisello. Allora, chi ha vinto questo round? L'importante non è vincere, l'importante è come si gioca. Sembra un gioco divertente. Dici che l'ho fatta ridere? Sì, un po'. Ha riso dentro. Yellow Submarine? Pirati. Di nuovo. Johnny Depp è un gran figo. Questo te lo concedo, ma non preferiresti espandere i tuoi orizzonti culturali e, che ne so, scegliere un film che derivi da un romanzo invece che da un padiglione di Disneyland? Perché questo è Pirati. Cerca in camera mia. Gran figo. Ah, non so se ho il numero del sushi takeaway. Semmai ti accontenti della casa di Cho, che è cinese. Padre. Figlia. Posso farti una domanda? Certo, amore. Che ci fa una donna nuda in camera tua? Vado a vedere. Tu aspetta qui, d'accordo? Sulla vagina non ha neanche un pelo. Credi che sia malata? Ora controllo. E qui finisce lo spezzone che abbiamo tagliato dal primo episodio di Californication. E appunto qui si può vedere Tommaso come il rapporto tra padre e figlia sia un po' contrastato. Beh, sicuramente è un rapporto un po' particolare. È un rapporto particolare perché la figlia è chiaramente, ok, questi due sono separati, ok, non sono sposati, però prima convivevano, adesso non convivono più, e la figlia passa un po' di tempo con il padre e un po' di tempo con la madre, che danno un'impostazione anche all'educazione particolarmente diversa. Lei subisce un po' queste cose, non sa mai bene benissimo come comportarci. In fondo prova una grande ammirazione per il padre, ma la madre gli dice sempre un po' che, beh, come si diceva all'inizio, è un po' come quelli sfigati che lavora da McDonald's. Eh sì. E, niente, quello che non abbiamo detto nel reintrodurre la scena era che lui in pratica era a letto con la tipa di cui abbiamo visto prima, che interpretava prima la suora nel sogno e poi in realtà era una persona vera, che rientra il suo marito a casa ed Hank nella furia di scappare dimentica i pantaloni e quindi si trova in macchina, scappa senza i pantaloni e quindi poi quando arriva a prendere la figlia è lì in mutande in mezzo alla strada e quindi sia Karen che Beck diciamo, hanno una reazione un po' particolare, diciamo, dicono che fai in questo vestito così e, nulla appunto. Questo, l'attrice che interpreta Becca è Madeleine Martin, che si produce anche in esperimenti canori, nonché musicali, suona la chitarra elettrica nella seconda, terza e quarta stagione, credo, e fa progressi abbastanza buoni. E, per un piccolo spoiler, possiamo dire che appunto nella quarta stagione starà in un gruppo che si chiamano Queens of Dogtown e suonerà appunto come chitarra solista. Ora io manderei un pezzo, sempre tratto da Californication, di Harvey Danger, Little Round Mirrors. Siamo tornati e nel frattempo abbiamo una nuova ospite, perché è un ospite femminile, avevamo bisogno di un punto di vista femminile su questa serie che è abbastanza maschilista invece, e diamo il benvenuto a Nicole. Ciao Nicole. Ciao a tutti. Nicole. Ciao. Eccoci qua, ora siamo in tanti, in realtà io sono sempre solo qui nella cantina, ma va bene. Ma quale solo? Scusa, siamo mille. Sì, mille ce n'è. Dicevo, tu hai... Siamo stretti. Hai visto questa serie TV, giusto? Sì. Cosa sono rimasta anche scandalizzata. Abbastanza. Cosa ne pensi? Hai continuato a guardarla, perché io so che ti spacciavo le puntate, quindi continuavi a guardarla. Cosa ne pensi? Ma lo spacciatore non dovrebbe far sgamare così quella che va a rifornirsi. Ma tanto, io sono spacciaserie, la gente lo sa che spaccio, quindi è palese ormai. È uno spaccio quasi legale questo, Nicole, per cui... Che cosa? È uno spaccio quasi legale, diceva Tommy. È uno spaccio quasi legale. Ah, ok. Ma oddio, vabbè, sì. Quindi... Non diamo allora, la serie è molto bella, molto interessante, molto esplicita. Sì. Soprattutto esplicita. Però alla fine, praticamente, la cosa buffa è che diventa normale, no? Tutte le scene di sesso, eccetera, il suo comportamento è come se passasse in secondo piano, in questo senso, no? Esatto. Mi torna? Sì, sì. E poi sì, uno sì, si focalizza invece su di lui. Perché appunto la storia si incentra sul rapporto tra lui e la sua ex compagna. Esatto. Ok, a proposito di questo, io andrei a vedere un filmato relativo appunto a Karen, che è il personaggio femminile protagonista della serie TV, insieme ad altri, perché i personaggi femminili ce ne sono tanti, più o meno vestiti. sì, noi ridiamo, ma però in effetti... Ma anche lui, tanto vestiti non sono. E niente, quindi adesso siamo a casa di Hank, introduciamo un po' lo spezzone, siamo a casa di Hank e c'è Becca che gli sta rimboccando le coperte mentre lui dorme sul divano e nel frattempo arriva Karen. E questo è quello che succede. Silenzio. Allora? Vorrei che ce lo portassimo con noi. Lo so. Adesso raduna le tue cose che ce ne andiamo. Non lo sgridare, però. No, non voglio sgridarlo. Solo un po'. Hank. Che c'è? Aia, conosco quello sguardo. È lo sguardo che mi fa accartocciare i testicoli. A 12 anni le fai trovare una troia nuda nella tua camera da letto. Sei orgoglioso di te stesso. Te l'ha raccontato, eh? Certo che me l'ha raccontato. E con questo? Che c'è? Sei geloso? Cosa? Senti, guarda, sei ancora fortunato che non ti faccio revocare la custodia parziale. Anche Bill dice che lo merita. Ah, Bill! Ti fai dare anche i consigli legali dal tuo fidanzato adesso. Che ragazza! Non cominciare, per favore. Sei stata tu a cominciare quando mi hai tradito. Abbassa la voce! Io non ti ho tradito! In che universo? Scopare con qualcuno quando sei sposata a un altro non si chiama tradimento. Ah, nello stesso universo in cui non ci siamo mai sposati. Questo è un tecnicismo pretestuoso. Non me l'hai mai chiesto? Troppo anticonformista per uniformarti al branco, così mi avevi sedotto. Pensa come sono rimasta male quando ho scoperto che eri solo un cumulo di cliché. Un narcisista che si cerca su Google. Ti ho visto. Mi sarò cercato su Google, ma non ti ho mai tradita. Mai. Non si tradisce solo andando a letto con altri. C'è una voce nel dizionario che dissente, mia cara. Io e Bill non ci siamo mai sfiorati con un dito prima che il nostro rapporto fosse chiuso. E ora vuoi rinfacciarmelo e farmela pagare? Tu non fai altro che infilare l'uccello in qualunque cosa si muove e pretendi di tornare con me. Ma non è tanto questo. Sai qual è la cosa peggiore? Che non scrivi più. Hai un dono naturale, hai un incredibile talento che va sprecato. Lo stai buttando nel cesso. Forse hai ragione. Cioè, non forse. Hai ragione e basta. Sono in una crisi nera. Ho bisogno di aiuto. Dico davvero, ho bisogno di te, no, mi manchi. No. Hank, sto per sposarmi. Che cosa? Lui me l'ha chiesto e ho detto di sì. Ma perché cazzo fai una cosa del genere? Ma perché lo amo. Ma non è vero. Sì, invece. Ti dico di no. Sì, non è lo vero. Amo. Non è così. Sì, invece, no. Ti dico... Non è Ma vero. Ma come fai no. a sapere? Perché ha una suoneria da coglione. È tutto quello che tu hai sempre odiato. Ben pensante tutto il resto. Insomma, potrò anche essere in crisi creativa, ma lo vedo che non è il tipo giusto per te. Lo vedo. Ma perché pensi questo? Perché io ti conosco. Ma avrò voce in capitolo o no? Senz'altro no. Sei sicura? Secondo me dovrei averla. Credo. Dovrebbe averla. Chi lo sa? Secondo noi... Boh. Non ci intrippiamo in questo dialogo. Intanto avviso che a coloro che sono su Skype, i nostri amici su Skype, Nicole e Tommaso, che possono parlare, possono intervenire quando vogliono. Prego. Oh. Dimmi. No, io sentivo poco. Ah. Ora ci sono. Ci sei, perfetto. Dunque, questo è il primo personaggio, diciamo, che rimane in tutta la serie, è femminile. E un altro personaggio importante è quello di Mia. Chi è Mia? Mm-hmm. Chiedo a voi, chi è Mia? Allora, Mia è la nipote di... No. Ah, ok. Uno alla volta. Pensavo fosse un'interrogazione, ma no. Decidete voi, fate a tocco, chi vuole parlare? Allora, Mia secondo me è la... Cioè, l'anti-Karen. Ovvero? No. È praticamente l'opposto, no? Cioè, Karen è leale, è quella da cui alla fine lui torna sempre, eccetera. Invece Mia è quella che se ne approfitta, no? Sì, sono abbastanza d'accordo con l'analisi. Tommy, vuoi aggiungere qualcosa? Perché la situazione ci marcia. L'unica cosa che voglio aggiungere su Mia è che sì, è quella un po' decisamente anti-Karen, come diceva Nicole. L'unica cosa è che in qualche momento, ma rarissimi momenti, però in qualche momento, sembra un po' che lei se ne penta. Cioè sembra che non gli piaccia proprio essere com'è, poi però continua a farlo. Per cui, sì. Ok. Esatto, ora non possiamo. C'è qualche momento in cui sembra un po' pentirsene. Non possiamo spoilerare troppo perché altrimenti i nostri amici non se la vanno a vedere, non hanno il gusto di scoprire. Però aspetta, cosa la cosa importante del personaggio, di Mia proprio, è che soprattutto è la. Come si chiama? La figlia della. No, di cos'era? Della tata? No. No, non lo diciamo. No, dai, perché si può aspetta, facciamo parlare i filmati. Mandiamo un primo filmato in cui appunto si conoscono Hank e Mia e succede tra di loro qualcosa. Andiamo a sentircelo. Mm. Silenzio. Che stai facendo? Come che sto facendo? Mi hai praticamente adescato. No, in realtà ero un po' ambivalente. Ah. E senti, sarà meglio che ti alzi, perché il mio ragazzo sarà qui da un momento all'altro. Ho beccato una svitata. No, però dai, stavo scherzando. Siediti pure, avanti. E se adesso non mi andasse più? Come vuoi, peggio per te. Sai quanto me ne frega di conoscere uno così innamorato di sé da girare le librerie per sbirciare il suo libro. Se hai l'impressione che io sia innamorato di me stesso, è probabile che tu sia più fatta di me, carina. No, oh, ti stai accapigliando con la tua autostima. Sì, e tu non sai a che punto. Mm. Povero piccolo. Hank, mi chiamo Hank. Lo so. Sono Mia. Lieto di conoscerti, Mia. Altrettanto. Ti posso fare una domanda? Certo. Tu l'hai... L'hai visto il film? Mm-hmm, sì. E cosa ne pensi? Sinceramente? Sì, la cruda verità. Ah, è una vera cagata. Il regista l'ha rovinato. Dovrebbero strozzarlo. Beh, io gli ho già dato il fatto suo. Ah. E così tu saresti un grande scrittore? Non direi. Una meteora da un colpo e via. Beh, adesso sono sicura, definitivamente e senza pentimenti, che non verrò mai a letto con te. Stai per venire? Non vedo ostacoli. Finisce così, con lui che viene preso a pugni mentre è a letto. Una scena un po' particolare, un po' inusuale per chi è davanti alla TV e sta guardando la scena, però è così. Appunto, lui viene picchiato e poi ridacchia mentre lei se ne va via. Io vorrei il punto di vista femminile su questa scena. Nicole, tu cosa hai pensato? Devo proprio... Su, non ti vergognare. No, vabbè, lei è una tipa strana. Sì. Cioè, perché fin qui non c'era nessun dubbio. Perché l'ha picchiato? Spiegami perché nella psicologia femminile può averlo picchiato. Che cosa? Non ho capito. Cosa si attiva nella psicologia femminile di Mia al punto da picchiare Hank? Secondo te? Vabbè, lei si vede che è una ragazzina che vuole... A parte fare la grande, mm-hmm. Non dire niente poi... sull'età, perché ancora no. Però infatti si atteggia, eccetera. E sarà stato anche a parte ora nella sua follia, eccetera, un modo per sovrastare lui che le sembra così sicuro di sé. Sì, ci può stare. Sicuro di asticcela. Tommy, tu invece cosa ne pensi? Eh? Ma senti, cioè cosa ne pensi esattamente di cosa? Della scena sì, o di lei? Il fatto che lei lo piglia a pugni. Ma è perché lei comunque, anche poi più avanti si vede, le piace avere il controllo della situazione, le piace avere in pugno anche le persone, e questo probabilmente la fa sentire meglio, le darà piacere in qualche modo. Sì, è una serie strana, diciamocelo, però a noi piace così, e l'hanno tra l'altro continuato a fare su questa scia, quindi se ha dei telespettatori che sono fedeli e che la seguono, va bene così. Ora, per concludere un po' il panorama femminile. Non ho capito, ci stai dando dei pervertiti, scusa. Esatto, ma me lo sto dando anche io. Ok, per concludere un po' il quadro Hank, Karen e Mia, perché sono legati e andiamo a vedere come sono legati, c'è un ultimo filmato che mandiamo. Dopodiché facciamo partire la musica e poi lo commentiamo. Andiamo a ascoltarcelo. Nessuno si merita questo. Vuoi entrare? Che ne pensa il tuo signore padrone? È fuori città. D'accordo. Così ti levi quell'odore di dosso. Ok. Doveva succedere? Sì, presto o tardi doveva succedere. Ho fatto male, forse? No, hai fatto esattamente quello che volevo, il che non vuol dire però che sia giusto. Ho agito d'impulso, sono partito e via. Del resto sei sempre stato una testa calda. Che, guarda caso, è proprio il titolo del mio prossimo romanzo. Ma va? Stento a crederci. Senti, parliamo di Becca, meglio. Non credi che sia la stessa cosa? E perché mi hai chiamato? Che c'entra? Tua figlia era nei guai, ho pensato che dovessi sapere. Balle, eri sola e spaventata e hai chiesto il mio aiuto. Ti voglio nella mia vita, certo, tu sei solo... Ammettilo che mi ami ancora, vuoi che facciamo almeno altri 10 bambini? No, il fatto è che quello che capita a Becca è sotto la nostra responsabilità, quindi che ci piaccia o no siamo legati a doppio filo, lo so. Escludendo ovviamente... i vantaggi sessuali. La cura che a quanto pare hai colmato egregiamente. Non buttarti giù così, ricordo che i nostri problemi non si estendevano alla camera da letto. E non fumare... Sì, era tutto il resto che faceva schifo. Andavamo alla grande una volta, tu lo sai. Beck. Che fai? Sposami. Che cosa? Non sposare lui. Sposami. Basta, giochetti, ti prego. Nessun gioco, non sono mai stato così serio. Ah, ho capito. Tu rivorresti la tua musa. Mi salveresti. E io salverei te. Ho combinato un casino, anche tu l'hai combinato. I bei momenti insieme non te l'ho mai chiesto. Ma te lo chiedo adesso. Sposami. Io lo so che vuoi tornare con me. Ah, scusatemi. Disturbo? No. Lei è Mia, la figlia di Bill, e lui è Hank. Voi... vi conoscevate già, per caso? No. Invece, io credo di riconoscerti. No. Sì, ti ho già visto. No. Sul tuo libro. C'è la tua foto in copertina. Giusto. Come l'ha presa? Ci odia tutti quanti, però sta bene. Hai fatto una figata questa sera, sai? È carino vedere che i valori della famiglia sopravvivono nonostante la bancarotta morale di questa città. Per me i valori della famiglia sono molto importanti. Che cosa hai fatto all'occhio? È vero, sì, non me l'hai più detto. Quell'altro è ridotto molto peggio. Speriamo che lei non ti faccia causa. Non è una lei, è un lui. Ho detto l'altro. Ah, ecco. È molto tardi, me ne vado a letto. Buonanotte, è stato un piacere conoscerti. Anche per me. Sembra molto simpatica. Sì, è un tesoro, una ragazza a posto. E quanti anni hai detto che ha? Ne ha solo 16. 16? Accidenti, 16. So cosa stai pensando. No, non credo che tu lo sappia. Ma per favore. Si è inondato di bava tutto il pavimento, Hank. Sei il solito depravato. Non è vero. Ti sto solo prendendo un po' in giro. Buonanotte. If you're all alone, you need someone. Call me up and I come running. Reconsider me, reconsider me. If there's still a past that makes you dead, darling, that would. And I'll never make you say it again, 'cause I swear that I've changed. E quindi siamo tornati in diretta sempre qui su www.radiocicletta.it. Salutiamo di nuovo Nicole e Tommaso che gentilmente sono ciao, eccoci. Uno da Marsiglia e l'altra da Torino, ci fanno compagnia questa sera qui nella cantina. Il mondo visione siamo. Sì, nel mondo visione nella cantina buia di Leo. Allora, diciamo che abbiamo un po' fatto il quadro sommario dei personaggi, perché poi ce ne sono alcuni che, di cui non abbiamo parlato, che sono Charlie Runkle, che è l'agente di Hank, e la moglie Mercy Runkle, che è appunto la moglie di Charlie ed è anche la moglie della gente. La moglie della gente ed è anche l'amica della compagna di Hank, di Karen, e amica e confidente. E adesso però, bypassando appunto questi personaggi che diciamo fanno appunto uno scenario di umanità completa, diciamo, all'interno della serie, perché anche loro hanno dei vari problemi. Umanità deviata, tra l'altro. Sì. Sempre, ricordiamoci. Sempre. Diciamo che in generale uno normale non c'è mai. Esatto. Sembra che a Los Angeles siano tutti così deviati, io non ci sono mai stato. Vabbè, ma sarà che sarà la città? E che ne so, la città degli angeli. Spulciando un po' tra i forum, ho trovato un messaggio di un ragazzo che appunto segue Californication, che all'epoca era nel 2008, credo, era uscita la puntata 10, anche questa 10, torna, il 10 che torna questa sera, della seconda stagione di Californication, però non erano ancora usciti i sottotitoli. Le estrazioni dell'otto, non erano ancora usciti i sottotitoli in italiano. Allora lui ha scritto, l'ha guardata in inglese e poi ha scritto questo messaggio sul forum. Io ora lo leggo cercando di essere abbastanza. Di capire un po' l'espressività del ragazzo. Ora taglierò che sicuramente la punteggiatura, chiedo perdono, non l'ho scritta io. Allora. Un po' di silenzio, un po' di suspense, musica, signori, non c'è. Entra nel personaggio. Entro nel personaggio, che è un ragazzo come noi, credo. E lui comincia dicendo: sembrerà scemo, inutile o assolutamente irrazionale come la memoria. Stanotte non ho dormito e forse a nessuno importa. Mi sono messo al PC e, stanco di aspettare i sottotitoli della 10ª puntata di Californication, ho deciso di vederla in lingua originale con i sottotitoli in inglese. Non mi servirà aggiungere che questa 10ª puntata è la più bella, emozionante puntata di un qualsiasi telefilm che abbia mai visto, nonché un piccolo capolavoro cinematografico. Parla di Hank e Karen, dei loro primi tempi, in frequenti flashback, del loro periodo newyorkese, della scoperta della gravidanza e il giorno del suicidio di Kurt Cobain. La storia di un amore unico o come tanti, di certo come il mio per una persona che non c'è più. Un amore nato con uno sguardo, una parola e una conversazione che non vuoi che mai finisca. Certi finiscono con la morte, ma con una morte sola continuano e rimarranno lì intatti, come cristalli puri in una bacheca colma di fotografie a proteggerlo. Di certo, quegli amori non possono finire. Hank e Karen sono due nomi che possono essere sostituiti con il vostro o con quello del tuo vicino. E ci sono momenti che quegli amori presentano il conto, furiosi come la passione che li ha animati, resi stelle brillanti di luce propria. Presentano il conto ogni volta che li si sfiora, senza pensarci, irrazionalmente, come la memoria, razionali come un dolore sempre presente. Hank scrisse una lettera a Karen in seguito della scoperta della gravidanza. Molti l'hanno fatto in passato e alcuni la conservano ancora in un cassetto come una reliquia di un tempo pazzo come la storia. Nella terra straniera dei ricordi escono ancora fuori quelle parole e non si può trattenere dal pensare che ci sia qualcosa che vada al di là dello spazio e del tempo, qualcosa che neanche Dio potrà mai raggiungere in quanto così tanto imperfetto da rendere le emozioni umane diamanti perfetti. Queste sono le parole di Hank, come lo sono state le mie e quelle di chiunque abbia bevuto al calice della vita. Neruda scrisse un'ode stupenda, intitolata Ode alla chiarezza, che recita: la bocca della vita bacia la mia bocca. Vivo, amo e sono amato. Ricevo nel mio essere quanto esiste. A voi la lettera in lingua originale. Dear Karen, if you're reading this, it means I actually worked up the courage to mail it. So good for me. You don't know me very well, but if you get me started, I have a tendency to go on and on about how hard the writing is for me. But this, This is the hardest thing I've ever had to write. There's no easy way to say this, so I'll just say it. I met someone. It was an accident. I wasn't looking for it. I wasn't on the make. It was a perfect storm. She said one thing, I said another. Next thing I knew, I wanted to spend the rest of my life in the middle of that conversation. She wants believe. Now there's this feeling in my gut. She might be the one. She's completely nuts in a way that makes me smile, highly neurotic. A great deal of maintenance required. She is you, Karen. That's the good news. The bad is that I don't know how to be with you right now. And that scares the shit out of me. Because if I'm not with you right now, I have this feeling we'll get lost out there. It's a big, bad world full of twists and turns. And people have a way of blinking and missing the moment. The moment that could have changed everything. I don't know what's going on with us. And I can't tell you why you should waste a leap of faith on the likes of me. But damn, you smell good. Like home. And you make excellent coffee. That's got to count for something, right? Call me. Unfaithfully yours, Hank Moody. E questo era lo spezzone in lingua inglese. Voi l'avete capito? Pronto? Più o meno, dai. Sì, dai, qualcosa si capisce. Diciamo che ci segue. Sapendo più o meno di che cosa parla, uno riesce un po' a seguirlo, dai. Sì. Tu non l'avevi mai sentito, giusto, Tommy? No, non l'avevo mai sentito. Invece Nicole l'ha visto, quindi sa già di cosa si parla, giusto? Sì, è bello, sì sì. Ora però, per dare un quadro chiaro anche agli ascoltatori che non capiscono l'inglese, bontà loro, anch'io così all'impronta non riesco a tradurre tutto quanto, abbiamo preso anche la versione italiana e facciamo ascoltare anche la versione italiana, quindi di nuovo silenzio, altri due minuti di lettera di Hank, questa volta in italiano, si spera comprensibile. Via. Cara Karen, se leggi questa lettera vuol dire che ho avuto il coraggio di spedirla, quindi sono stato bravo. Non mi conosci molto bene, ma quando comincio a scrivere ho la tendenza a ribadire quanto sia difficile per me farlo. Ma questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto scrivere. Ho incontrato una persona. È stato un caso. Non me la sono andata a cercare. Non ero a caccia. È stata la tempesta perfetta. Lei ha detto una cosa, io ne ho detto un'altra. E l'attimo dopo ho capito che avrei voluto passare il resto della mia vita in quella conversazione. E ora la mia pancia mi sta dicendo che lei è quella giusta. È completamente pazza. E la cosa mi fa sempre sorridere. È molto nevrotica. Ha bisogno di un sacco di cure. Quella donna sei tu, Karen. Questa è la bella notizia. Quella brutta è che non so come pormi con te al momento. E la cosa mi spaventa a morte. Perché se io non sto con te adesso, ho la sensazione che finiremo col perderci. Il mondo è brutto e cattivo, pieno di svolte tortuose. E le persone perdono il loro momento in un battito di ciglia. Quel momento che avrebbe potuto cambiare tutto. Io non so che cosa ci sta succedendo. E non so perché dovresti saltare fiduciosa nel buio con un tipo come me. Ma quanto profumi di buono. Sai di casa. E prepari un caffè eccellente. Questo conterà pure qualcosa, no? Chiamami. Infedelmente tuo, Hank Moody. Diciamo, questo spezzone è un po' per giustificare il fatto che non siamo depravati del tutto, perlomeno, che guardiamo questa serie TV, è vero, però diciamo la guardiamo anche con altri intenti, diciamo, almeno vogliamo salvarci in calcio d'angolo. Vogliamo salvarci così. Beh, diciamo che in fondo ha un lato anche molto romantico. Sì, sì, ma è una storia abbastanza tormentata, appunto, perché lui ha questo problema che ce le ha tutte un po', diciamo, cioè l'alcolismo, c'ha il fatto che dipende dalle droghe e c'ha pure questa dipendenza dal sesso, quindi ce li ha tutte, poverino. E quindi comunque lui cerca di lottare, di autoregolamentarsi in qualche modo, ma è più forte di lui. A volte lo fa quasi per pietà anche nei confronti di alcune donne che glielo chiedono proprio quasi come aiuto, come riabilitazione della propria persona. Quindi lui è il classico tipo che guasta tutto, cioè lei è molto più matura, invece lui guasta sempre tutto. Sì, non anche riesce... quando si un pochino riavvicina. Sì, vai. No, quando si riavvicinano un pochino, invece lui riesce sempre a trovare il modo di farsi sgamare oppure fare qualche danno. Sì, involontariamente riesce un po', riesce, cioè purtroppo combina qualcosa che rovina inevitabilmente la relazione, perché la logora attraverso questi continui alti e bassi che non danno affidabilità, quindi appunto essendo Karen una madre prima di tutto vuole dare anche alla figlia una certa stabilità emotiva, è quella che Hank non riesce appunto a dare, e quindi è lì che lei cerca magari di sposare qualcun altro, di sposare questo Bill, anche se magari non è veramente non è vero amore quello che prova per Bill, però dentro di sé cerca di dare stabilità alla figlia, cioè di darle una famiglia. Bene, io direi che per quanto riguarda Californication, se non vogliamo spoilerare troppo, direi che la possiamo finire qui. Non so se voi direi che può bastare. Se voi avete qualcosa da aggiungere, io vi lascio parlare. No. Ah, io una cosa la voglio aggiungere, sì. Dimmi, Tommy. Che mi stavo già quasi dimenticando. Una cosa che almeno nella prima stagione è abbastanza importante è il lavoro che Hank va a fare a Los Angeles, perché poi avrà vari risvolti anche nelle relazioni di Hank con altre persone, ma appunto non spoileriamo troppo. Questo lavoro è in pratica fare il blogger. Ora, una scena molto interessante che... credo probabilmente nessuno ci avrà fatto caso, sostanzialmente. Sono una mente malata come me. Chissà come mai tu sì. Questa finezza. In pratica si vede in una scena della seconda puntata che lui inizia a scrivere il blog, ma non riesce, prende il suo portatile e lo scaramenta a terra. Dopo va un po' in giro, entra in un Apple Store e lì su un Mac riesce finalmente a scrivere e parte con la prima puntata e la prima pagina del blog. E lì la marchetta ci sta tutta proprio. Ora tu la vuoi pubblicizzare ancora una volta, però vabbè, che dobbiamo fare? Questi macchettari. Ok, giusto così. Ah, quindi secondo te il Mac ti ha dato l'ispirazione? Vedi. Senza il Mac non c'era riuscito. Non avrebbe potuto. Tra le altre cose, curiosità che possiamo dire, possiamo, diciamo, anche curiosità abbastanza stupide, è il parallelismo appunto che possiamo fare tra Sex and the City e Californication, appunto il punto di vista femminile e il punto di vista maschile, un po' come Tommy e Nicole questa sera qui con noi in radio, e appunto sulla sessodipendenza o comunque sul rapporto malato con il sesso nelle serie TV. Cioè anche è un po' la Samantha della situazione. Ecco, io purtroppo Sex and the City non l'ho guardato. Ma che spaccia serie sei, allora? Io più che la Samantha direi più la Carrie della situazione. Vedi, invece Tommy però... l'ha visto. No, perché vabbè, però è più, cioè, il rapporto è ancora più malato, no? Vabbè, sì, che però è lo sfigato. Però è? Cioè, allora, per spiegare un po' chi ci sta ascoltando, perché sennò poi sembra che parliamo di chissà che cosa. Due notizie su Sex and the City. Sex and the City è la storia di quattro donne newyorkesi e di tutte le loro relazioni prettamente sessuali, sostanzialmente. La protagonista è Carrie, ma in realtà sono quattro coprotagoniste di tutta la serie. Tra queste c'è Samantha, che si vanta in pratica di essersi riuscita a fare, o quantomeno a portare a letto, circa l'80%, se non mi ricordo male, di tutta la popolazione maschile di New York, quantomeno della popolazione maschile che conta, in maniera abbastanza, diciamo, se ne vanta molto, non ne fa troppo mistero. Le altre invece sono donne un pochino, ok, vanno un po' con tutti, non è che si fanno troppi problemi, però insomma ci tengono. Ognuna ha il proprio modo di viverla questa sfera. Esattamente. E secondo me appunto mentre Samantha è una che va con tutti, contenta di andare con tutti, Hank non è proprio così, cioè va con tutte, però in fondo gli piacerebbe un po' di stabilità, è un po' la cerca in fondo. Sì, quello sì. Tra le altre curiosità che possiamo dire appunto ai nostri ascoltatori, c'è quella che David Duchovny, effettivamente lui come persona vera, non come personaggio di una serie TV, è stato affetto da dipendenza da sesso e quindi si è anche dovuto curare. Ma durante le riprese? Diciamo tra la prima e la seconda stagione lui è andato a farsi curare in una clinica, ha seguito un programma di riabilitazione, il rehab, come appunto è famoso, e nell'ottobre del 2008 è stato dato l'annuncio dal suo agente che appunto era guarito e tornava alle riprese. Tra l'altro, se non sbaglio, in una puntata di Sex and the City, a proposito, c'è Carrie che ha proprio una storia con lui, cioè lui che interpreta lì un personaggio, che è ricoverato in una clinica psichiatrica, se non sbaglio. Ora, io ho letto qualcosa sul fatto che lui aveva recitato anche in Sex and the City, ma non so la trama dell'episodio, quindi mi trovo impreparato su quanto... No, vabbè, non mi ricordo bene tanto per cambiare, non ricordo per cosa è ricoverato, anche, ma... So anche che Charlie Runkel, cioè l'attore che fa Charlie Runkel in Californication, è anche un protagonista di Sex and the City. Sì, infatti, è il, che, è il marito di una delle... Che tra l'altro... Cioè, mettendoci le virgolette, secondo me ha proprio la faccia da attore porno lui comunque. Cioè, attore sfigato. No, però. In realtà in Sex and the City fa una personcina per bene. Ah, guarda un po', delle volte. E infatti fa una personcina con la più particolare. Tranquilla, sta con la più tranquilla delle quattro, la più bigotta, tra virgolette. Ho capito. Sì, che è un termine un po', insomma, da usare con le pinze. Sì, film, perché però... lì, per essere così, vuol dire che è normale per rispetto alle altre, però le altre la ditano spesso e volentieri come quella un po' più puritana del gruppo. Del gruppo, ho capito. Okay. Allora, a forza di parlare di Sex and the City, sulla chat ci stanno addirittura chiedendo una puntata su Sex and the City. Ecco, vedi. Però io vorrei Leonardo come ospite in quella puntata. Leonardo è un fan. No, Leonardo c'entra sempre, quando si parla di puntate un po' spinte, lui c'è sempre. Insomma, quindi noi come ospite lo richiediamo fisso, diciamo. Poi lui ha degli impegni, purtroppo potrebbe avere, speriamo, che domani abbia un esame, un orale, quindi... noi siamo ben contenti di non averlo qui perché deve studiare, deve andare a dare l'esame. Ma a parte queste beghe interne della radio, io annuncerei il fatto che se qualcuno vuole, noi siamo qui pronti a fare il quiz. Nel caso non ci fosse nessuno, io direi di farlo tipo a Nicole, che tanto alla fine è ospite. Quindi se vuole può partecipare, sì, anche al quiz, certo. Visto che ha partecipato. Ci provo a vincere la tazza. E l'altra volta non ce l'ha fatta. Ecco, tra l'altro sono anche riuscita a essere sia in chat che nel programma come ospite. Ma che brava. Quindi accetto suggerimenti alle domande. Brava, del esatto. Possiamo fare così questa modalità. Chatters, in cui... suggerite. Perfetto. Sì, allora, direi che il regolamento prevede questa cosa. Sì, dai, facciamo che. Tanto il regolamento tiene anche in conto il fatto che la radio la sentano con circa 15-20 secondi di ritardo. Ah, già, è vero. Quindi sei facile che possano. Sei fregata, Nicole. Vabbè, io avrò 30 secondi per rispondere. Vedremo se ce la fai. Vabbè, non c'è verso. Nel frattempo io manderei un pezzo che è quello che abbiamo sentito in sottofondo agli spezzoni sia inglese che italiano della lettera di Hank, che è Nothing Man dei Pearl Jam. Eccoci qui, scusate per gli inconvenienti tecnici che si sono succeduti questa sera. Il bello della diretta. Nessuno ha chiamato qui, a parte quelli che già ci sono, per partecipare al quiz. E quindi io, per il gusto del quiz, direi che la farei a voi le domande, le tre domande fatidiche. Siete pronti? Ah, addirittura a noi? Cioè, vabbè, tutti e due dobbiamo rispondere. Diciamo che Tommaso non può vincere, quindi nel senso fa l'aiuto tecnico, vediamo se le sa. Ah, è un'interrogazione. Okay. Lui fa il suggeritore. Il suggeritore. Invece Nicole, se vuoi l'aiuto, dici voglio l'aiuto e io vedo se so la risposta. Ok. Allora. Vai, ci siamo. Io parto, eh. Fra le seguenti, qual è la serie televisiva ideata e prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg che racconta le vicende di un gruppo di paracadutisti durante la Seconda Guerra Mondiale? È facile. Cioè, io lo so, figuratevi. Mm. Risposta numero A, Band of Brothers. Risposta numero B, Heroes. Risposta C, Buddies. Risposta D, 24. 24. Le prime e le seconde quali sono che non ho sentite? Band of Brothers, Heroes, Buddies, 24. Voglio l'aiuto. Tommy? Ma a me in realtà risulterebbe un'altra, la... Però... Ma come un'altra? Ehi, Tommy, quella è la seconda. Ho capito cosa dici, forse. Però ce n'è una prima di quella lì. Ah, e allora mi sfugge. Però si può andare per esclusione. Allora, le rileggo. Le rileggo. Band of Brothers. Non è 24. Heroes. Buddy. 24. A, B o C o D? Io la prima, direi. Le altre tre mi sembrano di averle già sentite. L'accendiamo? L'accendiamo? La bruciamo? Quindi tu dici Band of Brothers? Sì. Ok, ed è la risposta esatta, signori. No! Metodo Tommy! Incredibile, ce la fa. se volete vi leggo anche la descrizione. È sempre più vicino. Sì, è una miniserie di 10 puntate, andata in onda nel 2001. Gli ideatori e i produttori della serie sono appunto Tom Hanks e Steven Spielberg, che hanno recentemente replicato il successo ottenuto con Band of Brothers con una nuova miniserie intitolata Pacific e ambientata sempre nella Seconda Guerra Mondiale. Infatti io sapevo che Tommy... Infatti appunto pensavo a quella. Invece Tommy, prima c'è stata nel 2001 Band of Brothers, che è anche più famosa di Pacific. Oh. Allora, andiamo. Siamo più vicini. Andiamo alla seconda domanda. Ok. Ogni episodio di Cold Case, Delitti Irrisolti, si apre con una particolare tecnica narrativa. Quale? Risposta A, piano sequenza di 2 minuti sulla vittima. B, montaggio alternato rapidissimo. C, flashback nell'anno in cui si è svolto il delitto. D, descrizione dell'omicidio da parte del serial killer. L'ultima cos'è? Descrizione dell'omicidio da parte del serial killer. Mambo. Tommy. Puoi rileggerle per favore, Piero? Allora, rileggo tutto. State attenti, perché la risposta secondo me c'è, si può capire. Ogni episodio di Cold Case, Delitti Irrisolti, quindi per aiutarvi è qualcosa che è già passato, no? Si apre con una particolare... Sì, no, ma la conosco la serie. Ok, si apre con una particolare tecnica narrativa. Quale? Pure l'aiuto mio ci vuole. Piano sequenza di 2 minuti sulla vittima. Montaggio alternato rapidissimo, flashback nell'anno in cui si è svolto il delitto, descrizione dell'omicidio da parte del serial killer. Quindi? Ma io direi io la penultima o l'ultima. Bisogna darne una di risposta. Anch'io andrei sulla C. Allora, però il concorrente Nicole mi deve dare la conferma. Quale vuoi accendere? La C, ma proprio perché penso con la mia testa. Salute. Quindi flashback nell'anno in cui si è svolto il delitto. Signore e signore, sì. In onda in Italia dal 2005, Cold Case è incentrata sulla squadra omicidi di Philadelphia alle prese con delitti mai risolti avvenuti molti anni prima. Ogni episodio si apre dunque con un flashback nell'anno in cui si è consumato il crimine al centro della puntata. Avete indovinato, signori. Quindi siamo a 2 risposte esatte. Si avvicina sempre di più la tazza. La tazza è una sola però domanda. Sarebbe bello fare una serie TV in cui l'assassino inizia a raccontare dell'omicidio che ha fatto. Attenzione, ora si trasforma in scrittrice di serie TV, Nicole, e la venderà questa idea probabilmente. Sì, è una bella idea, però per adesso nessuno l'ha fatto. O se l'ha fatta, noi non l'abbiamo vista. Terza domanda. In realtà invece c'è una serie che parla di questo. Guarda un po'. Chi è? Chi è? Cos'è? Perché? Che la conosciamo anche. Ci abbiamo gli spoiler settimanali. E qual è? Dexter. Dexter. Vabbè, ma lì non è, cioè, non è proprio così. Cioè, nel senso, lì l'omicidio lo deve ancora commettere. Cioè, lui ne ha fatti tanti, però quello della puntata, cioè, non è che te lo dice prima. Ho fatto questo. Ah, beh, certo, quello no. Ma è però... diverso. Vabbè, ma non è proprio la stessa cosa. Comunque, a parte questo, che poi dopo facciamo gli spoiler e concludiamo. Allora, la terza domanda. Dopo lo straordinario successo ottenuto con Will and Grace, Debra Messing, la Grace della sitcom, è diventata protagonista di un'altra serie. Quale? Risposta A. The Starter Wife. B. Cougar Town. C. Traveler. D. Gossip Girl. Quindi... Puoi ripetermele per favore? Allora, The Starter Wife, Cougar Town, Traveler, Gossip Girl. Ok. Vabbè, io escludo solo l'ultima perché la conosco, le altre non so. Chiedi l'aiuto a Tommaso, vediamo un po', oppure l'aiuto del pubblico in chat, non lo so se lo sa. Che mi dici? Io andrei sulla A. Qual è? The Starter Wife, quindi? Sì? Siete sicuri? Vabbè, io accetto il suggerimento perché tanto non so. E allora, io vado a leggere. La risposta era la risposta A, quindi hai vinto la tazza. Inizialmente... Oh, hai vinto la tazza! Ti leggo anche la descrizione della risposta. Complimenti, Nicola, grazie, hai vinto la tazza virtuale degli Spazio Serie. Sei la prima la prima vincitrice. La tazza virtuale degli Spazio Serie. No, ma la tazza qualcun altro ha vinto. No, non ha vinto nessuno. Questa volta però è visto, cioè esiste. Sì, questa volta esiste, ma non l'aveva vinta nessuno comunque. Tutti ci avevano provato, ma nessuno aveva vinto. Sei la prima vincitrice, grazie all'importante aiuto di Tommy, ragazzi. Comunque, che si rivela un grande aiutante, nonché un grande spacciaserie, appunto. Leggo appunto la risposta, che è: inizialmente The Starter Wife doveva essere una miniserie di 6 episodi incentrata sulle disavventure di una moglie improvvisamente abbandonata dal ricco marito, ma, considerati gli alti ascolti registrati, soprattutto per la presenza di Debra Messing, i produttori hanno deciso di realizzare una seconda serie. Intanto Tommaso sta inviando il premio a Nicole, che lo accetterà in chat. È vero, mi sta arrivando una tazza, però l'invio non è riuscito in questo momento. Disavventure. Cercheremo di fartela arrivare al più presto. Nel frattempo mandiamo il pezzo che prima colpevolmente non sono riuscito a fare ascoltare, che era Nothing Man dei Pearl Jam. Molto colpevolmente. Sì, colpa mia, me ne assumo le colpe. E quindi buon ascolto, Nothing Man per Jam. Eccoci tornati, nel frattempo purtroppo la rete sta andando maluccio e sono caduti sia Tommaso che Nicole, speriamo di recuperarli prima della fine della puntata per salutarli. E è arrivato il momento dello spoiler. Attenzione, qui si sentono rumori, qualcuno sta tornando, speriamo di risentirli presto. Nel frattempo mandiamo la sigla degli spoiler. Ok, e per gli spoiler cominciamo con Dexter, dall'episodio 11 della quinta stagione. E noi sappiamo, cioè chi la segue sa, che Dexter appunto ha delle cimici in casa messe da qualcuno, e in questo episodio lui scopre di essere appunto ascoltato, visto, e cerca di risolvere la questione. E quello che succede non lo possiamo dire perché altrimenti lo spoiler diventa troppo diretto e noi siamo appunto rispettosi di coloro che devono guardare questa serie e lasciamo parlare soltanto in inglese il filmato, prego. Ho The only van that remains after 24 hours just happens to be a rental. Judging by the amount of dust, it's been sitting there close to a week. Pronto? Piero? And here comes Quinn, checking in before he heads to the station. Muto sono. I never wanted it to come. Voicemail. You're Quinn's friend. That would be me. FYI, Stan Liddy is my name. What are you doing? I just need you to relax. Take this little place, have a little private chat, that's all. Why? Why are you doing this? Because our mutual friend Joey Quinn hired me to look into you, and I guess you know I found out some things. I just need you to lie there and relax. I don't want to zap you again, but I will if I have to. What? Come on now, Joey. Is that any way to talk to your new best friend? I told you, I don't want... Shut up and listen up. You get your ass in your car and you drive on down to the fuel docks at Bayfront Park. That big bust I want you to make, I need you to come down here and make it now. I don't know what you think you're doing, but you gotta stop it with this shit. Oh, horse shit. Nobody's stopping nothing. You're the one who hired me. And then I fired you. Listen, I'm with or without you. Now, you don't get down here fast enough, fucking jackrabbit. I'm calling in another cop, and then there's no telling how this is gonna spin out. Jesus, Liddy. Jesus ain't got nothing to do with it. Old fuel docks, Bayfront Park, now. Your buddy Quinn is on his way. Doesn't sound like he wants to come. Ok, scusate per le interruzioni musicali di Skype. Salutiamo di nuovo Nicole e Tommaso, che sono di nuovo. Rieccoci, finalmente rieccoci. Purtroppo la rete va e viene, quindi anche la linea di Skype va e viene, cadono. Abbiamo, per loro che non erano in onda con noi, quindi non sanno cosa è successo, noi stavamo ascoltando lo spoiler di Dexter, che è andato, anche se l'inizio l'abbiamo un po' rovinato con le nostre voci. Adesso invece mandiamo lo spoiler di Grey's Anatomy. Ora... Partito. I bail. Okay? When things get hard, I walk away. And maybe it's because I grew up in Army Brat. We moved every 18 months. Maybe I never learned to commit. But I'm here now. And I'm staying because I'm going to fight to make sure that you know that I'm committed to this thing. I'm not perfect, but neither are you. And you want to talk about faults? How about not being able to forgive? At some point, you're going to have to forgive me. And it may as well be now, because I am in love with you, Calliope, and you are in love with me. And all I'm asking for is one more chance. It's all anybody wants, right? Clean slate. A new beginning. You want another chance? Yes. More than anything, I want another chance. Like, that's gonna be any easier. Ask the guy pushing the boulder up the hill. Nothing's easy about starting over. Today I found out that I'm pregnant. With Mark's baby. How about now? Nothing at all. E che accadeva in questo 12° episodio della 7ª stagione di Grey's Anatomy. E non l'abbiamo introdotto, ma appunto era una scena in ascensore, c'erano Calliope e appunto la sua ex fidanzata che va lì per chiedere scusa per essere partita, per essere andata in Africa a curare i bambini, un po' tutta la storia che c'era stata prima, ma non spoileriamo troppo. E comunque io direi che Nicole e Tommaso adesso possono parlare, scrivere, fare. Ma tra l'altro sì, io ancora non sono arrivata a questo punto della serie, quindi non svelare, ecco, non svelo niente. Tutto, però se avete ascoltato quello che andava in onda si capiva abbastanza bene cosa risponde Kelly, e appunto dice che è successo qualcosa, c'è qualcosa in arrivo e basta, non diciamo altro perché altrimenti ci picchiano poi tutti quanti. E lasciamoci con l'ultimo spoiler che riguarda appunto Dr. House e l'episodio 10 della 7ª stagione. E c'è qualcosa di particolare che era successo in un precedente episodio, quello in cui c'era il ballo, il matrimonio, ed era coinvolto Chase, e solo che questo episodio ha avuto delle ripercussioni poi nella sua vita, perché in pratica, ora senza dire troppo, lui era andato a letto, un po' piacione lui, è andato a letto con diverse donne durante la serata e si ritrova, diciamo, vittima di stalking online. Su un blog vengono pubblicate delle sue foto ritoccate, non ritoccate, non si sa bene, e insomma lui ne va della sua virilità e comunque della sua bella faccia, e quindi cerca di affrontare, di rintracciare prima questa donna e poi di affrontarla, e il dialogo che ne viene fuori è quello appunto che andiamo adesso ad ascoltare. You're evil. Barely recognize you with your clothes on. You're at the wedding with your sister. Share a room with her too. I came by to change my shoes and found you in the bathroom. Took you long enough to find me. Because when someone starts pranking you, the logical suspect is the overly protective sister of a woman you slept with once. This has nothing to do with my sister. Then what does it have to do with? If you really have no clue, then you so deserve this. All that creativity and energy you put into pranking me? Seems like you're trying to make a point. You really don't want to tell me what it was? You're a really big fan of John Hughes movies. You inexplicably prefer Some Kind of Wonderful to 16 Candles, though that's probably because... Mary Stuart Masterson looked hot in those leather gloves. We talked at the reception. That's why you hate me? It was fun. It was great. Until I mentioned that I don't sleep with guys on the first date. And then you said you had to go to the bathroom, and you never came back. Actions have consequences. You seek vengeance on every guy who acts like an ass? Could be a full-time job. When we were talking, you seemed like a nice guy. So either you're a great actor or you're a nice guy who lost his way. Whatever the reasons, a little negative reinforcement seemed to be warranted. Oh, currently your password is Great Big Ho. Change it back to anything but password. Hey, I'm sorry. Let me prove it to you by taking you out for dinner. Followed by not sleeping. I'm serious. Not on your life. E finisce così. E se ci siete, battete un colpo. Gli spoiler sono andati. Io avrei finito qui, se avete qualcos'altro da aggiungere, a parte i saluti che facciamo tra un attimo. Sì, io devo aggiungere che la tazza che ho vinto è bellissima, mi ti piace? Arrivata per mail. L'ha fatta Tommy, fai i complimenti a lui. Il logo del Chi Spaccia Serie. Ora vogliamo una foto con la tazza. Sono contento, mi è piaciuta. Oh, bravo. La metterò come sfondo del desktop adesso. Che più di tanto donna vittoriosa. Niente, io direi, Piero, che possiamo quasi prepararci a lasciare la diretta a Cinemando. Sì, è anche comparso in chat, hai visto? È arrivato Roberto in chat, ora vuole fare la sua trasmissione. Siamo in ritardo di mezz'ora, come al solito, ma se vuole noi gli cediamo la linea, se vuole però. Va bene. Io quindi ringrazierei, tutti, ragazzi. Ringrazierei Nicole che abbiamo interrotto nelle sue grazie attività mille, da Torino. Grazie della tazza. Grazie a te che hai vinto, scusa. Noi siamo contenti di dare la nostra prima tazza. Va bene, ciao. Ringraziamo Tommy, il nostro Edmond Dantès dal Castello d'If lì in quel di Marsiglia. Ciao Tommy. Piero. Mi dicono fonti attendibili che non ci sarai la prossima puntata? No, la prossima puntata molto probabilmente sarò assente. Però non mancherò fra 2 settimane. Perfetto. Noi, nel senso io, vedrò un po' se riesco a organizzarmi con qualcuno, perché da solo qui sennò vado in paranoia. Vediamo se riusciamo a fare una puntata, altrimenti per la prossima settimana può darsi che salti l'appuntamento con gli spacciaserie. L'undicesima puntata si farà a te. Ma ancora comunque terremo tutti aggiornati se seguono la nostra pagina di Facebook. Sì, sulla nostra pagina scriveremo tempo reale. Sì, c'è la possibilità, ora do questo annuncio, probabilità che si faccia una puntata speciale su Dexter con un ospite in studio. Però ancora è tutto in forza, siamo in contatto, ci stiamo organizzando. Quindi rimanete aggiornati sulla nostra pagina, noi ci scriveremo, vediamo un po', diamo l'avviso quando siamo sicuri. Per stasera è tutto, io lascerei, visto che Californication è piena di belle canzoni e tanto qui la diretta va e viene, perché la linea è quella che è, però qui c'è una selezione di canzoni che io lascerei andare. Dopodiché poi riprende l'8-bit russa di famosa di Radio Cicletta e chi si è visto si è visto. Quindi buon ascolto con la musica di Californication, a giovedì prossimo.